giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Morte per soffocamento, la procura di Trieste sul giallo di Liliana Resinovic, la nuova perizia impone una rivalutazione. Mattarella di nuovo Gorizia il 15 marzo con l'ex presidente sloveno Pahor, premiato l'impegno per il riavvicinamento tra i paesi. L'incremento di risorse per il comparto unico non coprirebbe per la prima volta l'aumento dell'inflazione, la denuncia della CGIL. Lignano rilancia ospitalità rifiuti zero, il progetto che coinvolge le strutture turistiche per una migliore gestione della differenziata. Giornata mondiale dell'udito, problemi per uno studente su 10 di scuole secondarie e università, secondo uno studio del Burlo. Il basket che vince, Trieste batte Treviso e consolida la zona playoff in A2. Udine sconfigge Cantù e resta in vetta, terza Cividale. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Procura di Trieste, già al lavoro sul fascicolo della morte di Liliana Resinovic, la nuova perizia suggerirebbe il coinvolgimento di terze persone nella morte della donna, tanto da imporre, ha scritto stamattina il procuratore Frezza, una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti o acquisizioni. Attendiamo di poter avere accesso a questo fascicolo e poi ne prenderemo atto, ha detto il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, questa mattina ospite nella trasmissione Storie Italiane di Rai 1. E ha aggiunto: tutte le persone che hanno ruotato intorno alla vita di Liliana devono essere sentite. Un commento che arriva dopo il deposito alla Procura di Trieste della perizia firmata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo con la collaborazione dei medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, in aggiunta all'entomologo Stefano Vanin, per chiarire le circostanze della morte della Resinovic, la triestina scomparsa a dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel gennaio 2022. Intanto la Procura di Trieste ha commentato come la perizia impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti o acquisizioni. Una svolta che dà credito alle indiscrezioni già trapelate nelle scorse ore, in cui sono emersi nuovi elementi, a iniziare dalla frattura riscontrata in una vertebra, oltre a una lesione allo sterno e un'altra frattura subpleurica, che indicherebbero una possibile aggressione seguita dalla morte per soffocamento, confermata dalla lesione presente tra mento e labbro della donna. Altra indiscrezione, quella relativa alla presenza di un microorganismo compatibile con la conservazione a basse temperature, che confermerebbe l'ipotesi del congelamento del corpo e quindi di un delitto avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento del cadavere. I legali di parte sono al lavoro, ma per ora non hanno ricevuto né risposte o anticipazioni. Il tutto sembrerebbe indicare che per ora la procura voglia tenere quanto più riservato possibile i nuovi atti di indagine, che saranno probabilmente importanti. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato questa mattina a Gorizia il programma che sabato 15 marzo vedrà la consegna al Presidente della Repubblica Mattarella e all'ex Presidente sloveno Pahor del premio Santi Ilario e Taziano. I presidenti Mattarella e Pahor tornano a Gorizia per portare il loro messaggio di amicizia anche nella capitale europea della cultura e per ribadire che il valore del confine si è trasformato in un punto di raccordo e collaborazione, capace di generare nuove idee e di favorire la crescita comune. I due presidenti, nel frattempo in Slovenia, Pahor è stato succeduto dalla presidente Natasha Pirc-Musar, si sono già visti proprio a Gorizia nell'ottobre del 2021 per la celebrazione della designazione delle due città capitale europea della cultura e si sono rivisti un anno fa a Trieste quando l'università ha conferito loro la laurea honoris causa per aver contribuito con la loro politica di riconciliazione a superare le divisioni imposte dalla storia del Novecento. La loro amicizia e il gesto storico a Basovizza nel 2020, la stretta di mano davanti al monumento alle vittime italiane delle foibe e davanti al cippo che ricorda gli antifascisti sloveni uccisi, sono i valori per i quali i presidenti torneranno a Gorizia il 15 marzo per ricevere il premio Sant'Ilario e Taziano, città di Gorizia. Il sindaco Rodolfo Ziberna. Io credo che quel loro gesto, mano nella mano, sia davvero un momento iconico che ben riesce a rappresentare non soltanto le relazioni tra Italia e Slovenia, ma ben rappresenta anche la capitale europea della cultura, cioè pensare, insegnare, divulgare, spiegare ai giovani cos'è accaduto, ma necessariamente andare avanti. La cerimonia che si terrà all'Auditorium della Cultura Friulana alle 11.30 sarà preceduta dalla messa celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Tanti gli eventi per i patroni della città. Venerdì 14 marzo ci sarà l'inaugurazione del restauro della Chiesa di Santo Spirito e il concerto in collaborazione con l'Associazione Seghizzi con oltre 200 coristi e 40 orchestrali. Giovedì 20 marzo sarà a Gorizia il prefetto del Dicastero della Cultura del Vaticano per un incontro al Centro Bratus dal titolo Teoria della frontiera. Gorizia e Vaciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Il sindacato USB in presidio questa mattina davanti ai cancelli dell'ex Flex di Trieste per denunciare l'atteggiamento del fondo Faircap, nuovo proprietario dello stabilimento triestino. Un secco no alle ferie forzate imposte a tutti i dipendenti da Faircap, il fondo che ha acquisito la Exflex, l'azienda triestina di componenti elettronici entrata in crisi nei mesi scorsi dopo la fine della commessa di Nokia. Lo dicono i rappresentanti del sindacato USB, riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica che occupa 350 dipendenti. La decisione di Faircap è arrivata dopo l'esito infruttuoso dell'ultimo tavolo al Ministero sulla reindustrializzazione del sito mercoledì scorso. Un tavolo da cui è emersa da un lato l'intenzione del fondo di sfilarsi per lasciare spazio a nuovi imprenditori, ma dall'altro la volontà di cedere lo stabilimento a prezzo di mercato e non gratuitamente così come era stato ricevuto da Flex. Scelta che i rappresentanti dei lavoratori giudicano irricevibile. Da qui il fallimento del tavolo che attualmente non è ancora stato riconvocato. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora sindacati, le risorse stanziate per il rinnovo del contratto del comparto unico non bastano, dice la CGIL. Non è mai successo che l'incremento non coprisse l'inflazione. Dalla CGIL arriva un no deciso all'ipotesi di rinnovo del contratto del comparto unico avanzata dalla Giunta. Un contratto che riguarda 12.500 dipendenti di regione ed enti locali. Troppo poco per il sindacato l'adeguamento del 6% proposto per il periodo 2022-2024 a fronte di un aumento del costo della vita attorno al 15% secondo l'indice IPCA, preso come parametro di riferimento per il rinnovo. La categoria della funzione pubblica della CGIL invita la Giunta a copiare l'esempio di altre due regioni a statuto speciale, Sardegna e Valle d'Aosta, dove gli aumenti concessi sono stati rispettivamente il 12% e 15%. Secondo i conti illustrati dalla segretaria regionale Oretto Olivo, l'aumento proposto equivarrebbe in media a 135 euro in più lordi al mese, mentre sulla base di quanto sono cresciuti i prezzi nel triennio, l'incremento salariale dovrebbe superare i 300 euro. La trattativa sul contratto si aprirà ufficialmente il 13 marzo. La speranza della CGIL è che il fronte sindacale rimanga unito, a differenza di quanto recentemente avvenuto al tavolo nazionale per il contratto degli statali, firmato senza CGIL, UIL e USB. I negoziati non sono favoriti dal voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l'RSU, previsto a maggio. La Regione, con l'assessore per Paolo Roberti, sottolinea il miglioramento di aspetti non meramente tabellari, come un più semplice avanzamento di carriera anche senza laurea, oltre alle risorse in più stanziate per ridurre le differenze di stipendio tra i 4.000 regionali e i 9.000 comunali, con i secondi penalizzati di quasi 1.000 euro l'anno. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E la Questura di Trieste ha avviato una collaborazione con l'Ordine dei Medici per diffondere la consapevolezza sui rischi delle truffe tra gli anziani che frequentano gli ambulatori proprio dei medici di famiglia. Il rapporto di dialogo e fiducia tra paziente e medico di famiglia è uno strumento potente contro le truffe agli anziani, sempre più frequenti. Il questore di Trieste, Pietro Stuni. Il medico è il primo punto di riferimento per loro, soprattutto per le persone di una certa età. Quando vanno dal medico spesso parlano non solo dei loro sintomi, delle loro malattie, ma anche di quelli che sono i loro bisogni. L'obiettivo della collaborazione avviata dalla Questura con l'Ordine dei Medici è quello di prevenire le truffe, che spesso approfittano anche della scarsa consapevolezza digitale degli anziani, come la truffa del messaggio del finto parente. Papà, ho rotto il telefono e questo è il mio nuovo numero. Scrivimi su WhatsApp appena puoi, per favore. Essere vittima di una truffa, inoltre, può avere gravi conseguenze a livello psicologico per un anziano, soprattutto se vive da solo. Cosimo Quaranta, presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste. Un fatto di questo genere può aggiungere a questa involuzione, questa sorta di allontanamento, una situazione di pudore, di inadeguatezza, che può tradursi, da un punto di vista nosologico, se vogliamo dare un nome, a una depressione. Ma un medico di base che si trova ad assistere una media di 1500 pazienti può avere con loro quel rapporto di fiducia che aveva un tempo? Maurizio Pagan, medico in pensione, ci risponde che è possibile, a patto di una grande fatica del medico stesso, ma non è questo il solo problema. È chiaro che l'era del computer ha digitalizzato molte delle procedure e quindi i pazienti in realtà vengono meno in ambulatorio per motivi burocratici, ma che sono tanti comunque, ma vengono di più per motivi clinici e quindi un contatto, un colloquio, la possibilità di scambio. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo al tempo con cielo sereno su tutta la regione, più variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste e a Udine, 12 gradi a Gorizia, 12 gradi e mezzo, 11 gradi invece a Pordenone. A Tolmezzo 8 gradi e mezzo, a Forlì di Sopra 7 e mezzo, a Tarvisio 4 e mezzo e Piancavallo 3 gradi e mezzo. In montagna sullo Zoncolan 2 gradi, su Lussari 5 decimi di grado. Sulla costa a Grado 11 gradi e mezzo e a Lignano 10 gradi e mezzo. Ora le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio cielo sereno su tutta la regione, marcata escursione termica e inversioni termiche in montagna con lo zero termico che risalirà fino a 2200 metri di quota circa in serata. A Lignano l'anno scorso quasi 40 realtà tra alberghi, uffici spiaggia e marine hanno aderito alla campagna Ospitalità Rifiuti Zero 2024, progetto che estende e rafforza le buone pratiche della raccolta differenziata. I risultati di questa operazione saranno raccontati oggi in un incontro al centro civico di Via Treviso alle 18, in cui sarà presentato anche il progetto per il 2025. Ne abbiamo parlato con Andrea Guaran, docente dell'Università degli Studi di Udine, responsabile del progetto. I punti più importanti per quanto riguarda Lignano soprattutto sono quelli di cercare da un lato di migliorare la gestione dei rifiuti e dunque soprattutto di innalzare il tasso di raccolta differenziata e curando meglio la gestione delle diverse frazioni di rifiuto. Dall'altro però il messaggio è anche quello che dobbiamo cercare di anticipare, cercando di ridurre o contenere la produzione di rifiuti, dunque essere attenti anche nei momenti in cui si fanno gli acquisti, si consuma, in modo di poter appunto contenere la produzione complessiva di rifiuti e poi gestirla adeguatamente. Questo perché soprattutto nelle località turistiche, data la complessità e le variabili degli attori anche presenti, la quantità di rifiuti prodotta è significativa e ahimè, in quasi tutte le località turistiche, che siano di montagna, che siano quelle balneari, il tasso anche di raccolta differenziata è decisamente inferiore anche di 10 punti e più alla media regionale e anche 20 punti al di sotto dei comuni, diciamo, più virtuosi che abbiamo in regione. Questo perché i turisti non conoscono le regole della differenziata specifiche? Da quello che abbiamo compreso dagli studi e un po' la letteratura, ci sono da una parte i turisti che ovviamente possono avere regole e modalità diverse e il fatto che quando siamo turisti magari siamo meno attenti, no? Ma poi dobbiamo tenere presente anche che abbiamo il proprietario di seconda casa, i turisti in giornata che non sempre si riportano a casa naturalmente i rifiuti che producono, per cui abbiamo una varietà e abbiamo poi tutte le persone che lavorano e i ritmi di lavoro soprattutto per quanto riguarda tutto il settore della ristorazione, insomma alberghi e ristorazione. Sono 8.000 le presenze a Tarvisio legate ai mondiali di sci alpino giovanile che sono in corso fino a giovedì, 800 solo fra atleti, atlete e personale tecnico, un flusso che si interseca con il consueto boom di turisti in occasione delle vacanze di carnevale. Ne abbiamo parlato questa mattina, buongiorno Regione, con il direttore di Promo Turismo. Dopo un inizio faticoso con la gara di venerdì rinviata a causa della troppa neve, i campionati mondiali juniores di sci alpino in corso a Tarvisio proseguono a pieno ritmo fino alla conclusione prevista giovedì 6 marzo. Alla prova i migliori atleti dai 15 ai 20 anni, compresi quelli che hanno già debuttato in Coppa del Mondo. Jacopo Mestroni, presidente del comitato organizzatore dei campionati, nonché direttore generale di Promoturismo FVG. È iniziato effettivamente con qualche problema, però abbiamo recuperato, ci sono 380 atleti presenti, oltre 370 tecnici, sia il polo di Tarvisio che l'intero comprensorio stanno rispondendo, devo dire, molto bene, per cui siamo soddisfatti, siamo a metà Oggi inizia il programma delle discipline tecniche, è appena terminato con ieri il programma delle discipline veloci sulla pista di Prampero, per cui tutto in linea con le aspettative. Le date di questo campionato cascano in un periodo di forte afflusso turistico, complici le vacanze di Carnevale. Ci sono 8.000 pernottamenti in questi 10 giorni legati ai mondiali e riescono a convivere anche con quella che è la necessità del pubblico che viene da noi normalmente. Tarvisio è pronta come località a livello sia logistico che organizzativo e poi c'è una macchina che quest'anno è stata ulteriormente collaudata dopo l'esperienza di EIO 2023. Numeroso il pubblico favorito anche dalla gratuità della manifestazione, ma chi volesse approfittare di questi giorni di ferie per andare a sciare può scegliere Tarvisio? Certo, da oggi la pista di Prampero è riaperta al pubblico, è stata chiusa fino a ieri per permettere alle gare di essere disputate e tutto il resto del comprensorio è aperto. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 10% degli studenti delle scuole secondarie e universitarie ha problemi di udito. Tra gli insegnanti è il 20%, ma meno della metà si rivolge a specialisti. Sono alcuni dei numeri del progetto Abaco con cui l'IRCS Burlo Garofalo, in occasione della giornata mondiale dell'udito che cade oggi, vuole sensibilizzare sul problema delle difficoltà uditive. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Eva Orzane, direttrice dell'audiologia e otorinolaringoiatria del Burlo, chiedendole se una percentuale come quella rilevata dallo studio sia da considerare normale. Non dovrebbe essere una cifra normale in termini fisiologici o medici, ma certamente sta diventando la normalità se si considerano gli stili di vita e gli ambienti in cui crescono i bambini e i ragazzi. I dati del progetto Abaco da noi presentati, che sono risultato di questionari a cui hanno risposto più di 2.000 studenti e più di 400 insegnanti, non danno informazioni molto diverse da studi e ricerche di altri stati. Quali sono le cause? Aerei, traffico urbano, petardi, stereoportatili, concerti, discoteche, fischietti per gli arbitri, molti elettrodomestici, anche attrezzi per la cura del prato, per dire anche molti giocattoli, sono esempi di fonti di rumore ambientale che, se noi li misuriamo e misuriamo i loro livelli di rumore, quasi sempre presentano livelli superiori agli standard consentiti negli ambienti di lavoro. Di udito si parla poco in generale. C'è una certa ritrosia a riconoscere problemi di questo tipo? I problemi uditivi nei bambini e nei ragazzi vengono spesso sottovalutati. E questo è particolarmente problematico perché i disturbi uditivi non sempre sono immediatamente visibili. Molti genitori e anche alcuni operatori, perfino professionisti della salute, possono non riconoscere i segnali precoci delle difficoltà uditive nei bambini. Però è bene sapere che anche una piccola perdita di udito può avere effetti negativi sulla comprensione, sulla comunicazione, sull'apprendimento, sullo sviluppo relazionale, lo sviluppo sociale. Come è cambiata in questi anni la tecnologia? Ci sono stati enormi sviluppi, in particolare nei dispositivi audiologici come gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari. L'impianto cocleare in un bambino piccolo è oggi una delle opzioni più significative e potenti che abbiamo per affrontare le gravi perdite uditive, poiché se applicato precocemente offre la possibilità di far sentire i bambini e di favorire il loro sviluppo linguistico e cognitivo, rendendolo simile in pochi anni allo sviluppo di un bambino del tutto normale. Per gli spettacoli ricordiamo che il concerto del pianista Grigori Sokolov, originariamente in programma questa sera al Verdi di Trieste alle 20.30, è stato rinviato a data da destinarsi per l'indisponibilità del maestro dovuta a motivi di salute. La Società dei Concerti di Trieste fornirà il prima possibile comunicazioni sulla nuova data. I biglietti acquistati per la data annullata di questa sera rimangono validi. E siamo allo sport, il basket. Trieste brilla e fa suo il derby del nord-est battendo Treviso 85-73, dominando più di quanto dica il punteggio finale. Il primo quarto è equilibrato, nel secondo il primo strappo è firmato da Reyes, poi sale in cattedra Ruzier. 45-33 il punteggio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa di fatto non c'è storia, vista la differenza di energia che la squadra di Christian imprime a ogni possesso. Decisivo è anche Jace Johnson. Trieste consolida così la sua classifica in zona playoff. Treviso, concorrente diretta, è a meno 8. Sentiamo il general manager Michael Arcieri a fine match. Abbiamo visto una squadra che ha fame, che che è partito dal Torino con un sapore amare nella bocca. Hanno lavorato tantissimo, con precisione, concentrazione. Abbiamo visto una difesa stasera che era veramente forte, forte. Parliamo sempre del fatto che dobbiamo cominciare con la difesa. E quello è il nostro credo, è la nostra religione. Senza la difesa il campionato non andrà bene. Ma se lavoriamo così, con un fame così, possiamo essere competitivi. In A2 vincono anche le squadre friulane. Apuol 2 e l'Uest Udine batte Cantù nello scontro diretto al Pala Carnera per 89-85 e mantiene saldamente la testa della classifica con 46 punti. Sentiamo il commento di coach Verte. Siamo veramente contenti della nostra vittoria prima, della prestazione poi. Era la terza per noi in 7 giorni, credo che siamo noi e Livorno ad aver giocato tutte le partite. E nonostante questo abbiamo finito crescendo, quindi questo significa che hai dentro qualcosa. I ragazzi volevano assolutamente vincere e hanno fatto le giocate decisive per vincere, difensive ed offensive. Poi possiamo parlare di tattica, di scelte. Io quello che ho detto ai ragazzi, possiamo fare qualsiasi cosa oggi, ma è come lo facciamo, non è cosa facciamo, e quindi fatelo al massimo, e loro l'hanno fatto. E sempre in A2 anche Cividale vince contro il Fannalino di Coda. Piacenza al Palagesteco per 97-76 ed è terza a 38 punti. Coach Pilastrini ha lasciato la parola post match al vice Geromet. Il primo tempo è stata una battaglia, loro ci hanno mostrato la loro faccia migliore, fatta di aggressività, fatta di intensità, fatta di attacchi spesso imprevedibili che possono davvero mettere in difficoltà a chiunque in questo campionato. Nel secondo tempo abbiamo sicuramente alzato il livello della nostra pressione difensiva e abbiamo anche limato un po' di palle perse che nel primo tempo ci avevano messo un po' in difficoltà. Ricordiamo anche il volley. In A2 Tinet Prata ad Aversa ha confermato la sua posizione di capolista sconfiggendo al tie break per 3-7-2 la squadra campana dopo una partita tiratissima lunga 2 ore e mezzo. Sono ora 3 i punti di vantaggio su Brescia, seconda in classifica. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavalli. Vallari e Caterina Cabrelli. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.